nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Sedici zero sette, dieci secondi, buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. I saluti vi arrivano anche da Nadia Zammitti, Mire Lucchetti che sono in redazione, Filippo Oreggi è in regia. Per domande, commenti, critiche, osservazioni, gli sms al 349-238-6666. Su Twitter cercatemi, sono Giampaz, oppure Nessun Luogo 24. Infine, se volete prendervi un po' più di tempo per notazioni, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. E un pizzico di tempo me lo prendo per rispondere all'ascoltatore che ieri mi sollecitava nell'informarmi leggendo un editoriale di Francesco Alberoni su il giornale appunto di ieri. In effetti ieri mi era sfuggito questo editoriale che è tutto sul tema immigrazione, in realtà molto lontano dal tema che abbiamo toccato ieri a Nessun Luogo Lontano, ma avevo promesso una risposta ed eccola qua. Ebbene, nell'articolo di lunedì di Alberoni su il giornale viene detto che i clandestini sono la vera emergenza, ma il premier non se ne occupa. Onestamente è chiaramente un'opinione personale. Se devo parlare di immigrazione e mi devo informare, certamente Francesco Alberoni, noto sociologo, non è la fonte più adeguata. Nella sua ricostruzione, cito testualmente, lui dice: c'era un minimo di controllo nella Libia di Gheddafi, nella Tunisia di Ben Ali, e ce n'è anche un reato di immigrazione clandestina. Il reato di immigrazione clandestina non serve assolutamente a nulla se non a ingolfare il sistema giudiziario italiano. Che vi fosse controllo con Gheddafi e Ben Ali è chiaro, ma c'erano anche due regimi. Poi la ricostruzione storica di Alberoni è francamente un pochettino zoppicante, perché si dice ad esempio che gli integralisti islamici sarebbero stati sconfitti dai militari in Egitto, quando si parla in realtà di Fratelli Musulmani e di un golpe ad opera dei militari. Insomma, una ricostruzione che secondo me zoppica parecchio. E poi Francesco Alberoni, dando del tu al Presidente del Consiglio, cosa che insomma sarà formale ma io non mi permetterei, dice fondamentalmente: la politica dello struzzo, non viene nominata l'emergenza immigrazione, il dossier immigrazione, nel programma di governo. Ricordo all'ascoltatore che io stesso scrissi una lettera aperta al Premier Renzi e al Ministro dell'Interno Alfano, la lettera è stata pubblicata alcune settimane fa sul Fatto Quotidiano, in cui dicevo esattamente questo e chiedevo anzi al Premier e al nostro Ministro di fare tesoro della presidenza europea appunto dell'Italia, per risolvere in sede europea quelle che sono le problematiche legate appunto all'immigrazione, partendo soprattutto dal traffico di esseri umani che va a ingigantire, va a arricchire le tasche di spregiudicate persone che lucrano sulla pelle dei migranti. Detto ciò, questo programma cerca di individuare quelle che sono le fonti più autorevoli per cercare di dare un quadro completo della situazione e fare e cercare di fare informazione come si deve. Non mi sembra che Alberoni in questo suo editoriale abbia aggiunto chissà quale tassello illuminante sul dossier immigrazione, tutt'altro. Tanto dovevo all'ascoltatore, allora partiamo invece da tutt'altro. Oggi si celebra, non si festeggia certamente, il World Humanitarian Day. On World Humanitarian Day, we renew our commitment to life-saving relief efforts and we remember all those who died serving this noble cause. It is the one day of the year when we shine the spotlight on aid workers. E la voce che avete sentito è quella di Ban Ki-moon e di Valerie Amos, che è a capo dell'Ufficio Umanitario delle Nazioni Unite. Dal 2008 si celebra questa giornata per rendere omaggio a tutti quegli operatori umanitari impiegati nei più diversi fronti, che sostengono le popolazioni e che danno il loro contributo in crisi umanitarie di livello ai quali purtroppo la cronaca degli ultimi anni ci ha tristemente abituato. Che significato può avere un giorno come questo? Beh, giro immediatamente la mia domanda a Tommaso Della Longa, che è portavoce per la crisi siriana della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che è in collegamento con noi in diretta da Beirut. Tommaso, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo. Sì, buongiorno a tutti voi. Beh, il significato di questa giornata è prima di tutto ricordare tutti gli operatori umanitari che vengono uccisi o feriti o arrestati o rapiti nei conflitti armati, e anche chiedere a tutto il mondo, ai governi, alle parti in causa nei conflitti, di rispettare gli operatori umanitari. Per quanto riguarda il Movimento Internazionale di Croce Rossa, oggi il nostro focus è sulla crisi siriana, una crisi di cui non si parla più, e drammaticamente proprio oggi abbiamo dovuto aggiornare la triste, drammatica conta dei volontari uccisi. Abbiamo il 45esimo volontario della Maddalena Rossa siriana ucciso in 3 anni di conflitto, non succedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. E fai bene, Tommaso, a ribadire quanto la crisi siriana sia, come dire, al di fuori dei riflettori, un po' perché altre crisi si susseguono e il racconto anche di noi che cerchiamo di dare conto al nostro pubblico di quello che accade ovviamente è limitato, e quindi succede colpevolmente che a volte ci si dimentichi che lì in Siria si continua a morire. In ultima istanza, Tommaso, quanto è difficile per voi operatori umanitari a entrare in una situazione così fluida, così complicata e drammatica come quella siriana? Un po' mi hai già risposto, perché 45 soccorritori morti non è poco. Quanto riuscite a lavorare dentro il territorio siriano? Grazie alla Mezzaluna Rossa Siriana e ai suoi meravigliosi volontari che fanno parte delle comunità locali, siamo ben accettati, diciamo, in ogni angolo della Siria. Il problema rimane ovviamente il rispetto dell'emblema, quindi la richiesta a tutte le parti in causa di rispettare il diritto internazionale umanitario e gli operatori umanitari, ma dall'altra le priorità umanitarie, perché siamo arrivati al quarto anno di conflitto. Ad oggi si parla di circa 7-8 milioni di siriani sfollati interni, più di 3 milioni esterni tra Turchia, Libano, Giordania e Iraq, e priorità che partono dal cibo. Adesso noi nei prossimi giorni lanceremo un appello d'emergenza a livello internazionale per tutti i materiali che devono essere consegnati agli sfollati interni ed esterni per l'arrivo dell'inverno. In questo momento i nostri appelli di raccolta fondi internazionali non arrivano neanche al 50% di quanto abbiamo richiesto, e se non riusciamo ad avere quelle cifre entro settembre non riusciremo a distribuire conseguentemente i materiali ai rifugiati e profughi siriani, e quindi sono priorità sostanziali, per non parlare di acqua. In quest'anno qui in Medio Oriente c'è stata una grandissima siccità, sì, e ovviamente appunto cibo. Grazie mille Tommaso Della Longa, delle tue parole per altro, insomma, si capisce anche che dovete lottare contro una assuefazione da parte dei media e del pubblico anche alle crisi, perché quando una guerra dura da 3 anni, evidentemente, ed è brutto ammetterlo, però esiste un'abitudine a quella crisi. Grazie mille a Tommaso Della Longa, lo ricordo, è portavoce per la crisi siriana della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Buona giornata e buon lavoro, Tommaso. Grazie a voi, a presto. Allora, 349-238-6666 per i vostri commenti, Twitter, Giampaz, Nessun Luogo 24, Nessun Luogo è lontano, trattino Radio 24, invece su Facebook. Allora, in questa giornata si ricordano tutti gli operatori umanitari, i soccorritori che sono lì in prima linea nei tanti conflitti in giro per il mondo. Poi c'è anche chi si occupa invece del rispetto dei diritti umani, ed è notizia delle ultime ore che per la prima volta nella storia Amnesty International, l'organizzazione che si batte per il rispetto dei diritti umani, ha dislocato il suo staff all'interno degli Stati Uniti, e cioè in Missouri, a Ferguson, e questo ci dà la dimensione di quanto la situazione sia tesa. È scottante, è proprio a Ferguson, in Missouri, Stati Uniti, che io vi porto. Police in riot gear firing stun grenades and tear gas in a chaotic scene. As protesters demand justice for Michael Brown, the unarmed teenager fatally shot by police 10 days ago. Once again, the peace here in Ferguson kind of hung by a string. As you mentioned, there was this standoff where protesters who had been marching peacefully up and down along the side of the street. This is a real problem when it comes to police brutality and how young black men, or BMWs as we say at the NAACP, black men walking, are being dealt with on the street. It appears that there seems to be this lack of care for black life. And I'm in denial, and it don't take no x-ray to see right through my smile. I know.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, un maschio afroamericano nato nel 2001 ha il 32% di possibilità in più di andare in prigione nella sua vita rispetto a un coetaneo bianco. Secondo un sondaggio di Associated Press del 2012, il 51% degli americani ha espresso sentimenti contro la comunità nera, il 3% in più rispetto al 2008. Attualmente il 50% degli statunitensi sotto i 18 anni appartiene a una minoranza etnica. Si stima che entro il 2042 i non bianchi costituiranno la maggioranza della popolazione americana. Questi sono i numeri che fotografano gli Stati Uniti, un paese complesso dove evidentemente la questione razziale ancora non è stata risolta nemmeno da Barack Obama, presidente nero. Professor Luconi, io prima citavo il 92, Los Angeles e gli anni 60. Quanto sbaglio nel, come dire, affondare il presente in quelle radici del passato? Ci sono delle analogie, ci sono però anche delle differenze. Se si pensa alla rivolta di South Central Los Angeles del 92, scoppiò non nel momento in cui Rodney King, l'automobilista afroamericano, fu pestato dagli agenti di polizia bianchi, ma nel momento in cui gli agenti furono assolti per non aver commesso il fatto. Cioè nel 92 esisteva da parte della popolazione afroamericana ancora l'illusione nel fatto che la giustizia potesse avere il suo corso e non essere razzialmente connotata. Qui c'è stata un'anticipazione nei tempi, cioè la rivolta è scoppiata nel momento in cui l'individuo afroamericano è rimasto ucciso, cioè non c'è nemmeno più quell'illusione nella possibilità di una giustizia non razzialmente connotata, e questo è un po' l'esito dell'illusione che si erano fatti un grandissimo numero di afroamericani che l'elezione del primo presidente di colore avesse in qualche modo contribuito a superare la questione razziale. E fra l'altro, professore, questo è il motivo per cui la madre di Michael Brown continua a invocare giustizia e dice quella gente, insomma, deve essere punito, proprio per, come dire, in qualche modo anticipare quello che lei stava tratteggiando. Professore, che paese è Ferguson? Che cos'è il Missouri? Non è uno stato del sud dove, no, la maggioranza nera ci ha abituato anche a certe frizioni, a certe rivalità, a certe tensioni? No, il Missouri non è uno stato del profondo sud, però Ferguson è un sobborgo di St. Louis che è andato incontro a un radicale mutamento demografico nell'ultimo 25 anni, per cui la popolazione bianca, che era in maggioranza ancora nel 1990, si è ridotta a poco più di un terzo e gli afroamericani sono diventati due terzi. A fronte di questo mutamento, però, le leve del potere continuano a essere nelle mani dei bianchi. Nel consiglio comunale c'è un solo afroamericano, il sindaco è bianco, e quindi gli afroamericani, pur essendo la maggioranza dei residenti, si sentono estranei all'amministrazione comunale. Professor Luconi, c'è l'informazione finanziaria, rimanga con noi, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. E anche la scena musicale statunitense si è mobilitata. Prima avete sentito J. Cole, che ha scritto un brano in onore di Michael Brown, il ragazzo freddato dal poliziotto con 6 colpi di pistola, sulla cui vicenda ovviamente si spera verrà fatta chiarezza. È la prima speranza ovviamente della madre, che lo ha più volte dichiarato davanti alle telecamere. Siamo con il professor Stefano Luconi, che insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Con lui stiamo cercando di capire quanto la storia statunitense, quanto gli anni 60, quanto le rivolte del 92 ci aiutano a capire quello che sta accadendo in questo momento in Missouri. Professore, è un momento questo in cui gli Stati Uniti, l'economia statunitense non certo gode di una salute splendida. Trova vi sia una relazione fra crisi economica e frizioni etniche? Sì, questo indubbiamente accentua le tensioni soprattutto in luoghi come Ferguson, dove il controllo da parte dei bianchi sulle istituzioni locali, anche delle conseguenze nell'assegnazione negli appalti, nella possibilità di assumere persone, l'impiego pubblico è sempre stato un sistema per cercare di lenire la disoccupazione, ma se si va a vedere la distribuzione degli appalti, soprattutto in settori tipo le costruzioni, tipo alcuni servizi municipali come la rimozione dei rifiuti, a Ferguson sono andati tutti a vantaggio di aziende controllate da bianchi con personale soprattutto bianco, e quindi questo non ha fatto altro che accentuare questo senso di rivolta della popolazione nera che si sente marginalizzata, a maggior ragione in un momento di crisi economica. Ecco professore, l'ultima domanda invece gliela fa in realtà un ascoltatore, perché al 349-238-6666 appunto un ascoltatore scrive: se la maggioranza dei residenti è di colore e il sindaco è un bianco è solo perché non hanno coscienza sociale e non votano un loro candidato. Così un ascoltatore, professore, come può rispondere? È un po' più complesso, nel senso che c'è una tendenza alla disaffezione politica da parte degli afroamericani. La maniera per mobilitarli è attraverso le associazioni di quartiere, però siccome questo trasferimento dei neri a Ferguson è estremamente recente nel tempo, queste associazioni di comunità ancora non sono così ben radicate da poter portare i neri, che sono a maggioranza dell'elettorato potenziale, a essere anche la maggioranza dell'elettorato attivo e quindi a esprimere rappresentanti della loro razza. Professore, le chiedo l'ultimissima domanda, è una risposta in forma di slogan, se possibile: che cosa potrà placare gli animi, che cosa potrà risolvere la bollente situazione di Ferguson secondo lei? Ma la situazione di Ferguson si sgonfierà sicuramente nel giro di qualche giorno. L'importante però è che ci sia quella giustizia razziale che gli afroamericani sentono mancare, ovvero sia che ci sia un'inchiesta che sia trovato il responsabile. Questa è l'unica maniera per disinnescare la disaffezione dei neri nei confronti delle istituzioni, che è quello che provoca le sommosse che abbiamo visto in questi giorni. Grazie mille al professor Stefano Lucconi, docente di storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Grazie, buona giornata e buon lavoro, professore. Grazie a voi. Questa era la ricca pagina dedicata alla situazione di Ferguson, Missouri, Stati Uniti. C'è un altro fronte caldo da tutt'altra parte che campeggia nelle prime pagine dei giornali oramai da mesi. Andiamo in Ucraina. Сьогодні о 5 ранку стався бій між українськими десантниками та проросійськими бойовиками за аеропорт у Луганську. Ukraine's military says many people have been killed after a convoy carrying refugees from the eastern rebel-held city of Luhansk was hit by pro-Russian separatists. The rebels deny responsibility, but Ukrainian officials said victims were burned alive as rocket fire hit their buses. E come sentite, questa è una delle ultime eventi che ha scatenato ovviamente anche la guerra di propaganda. Sei stato tu? No, sono stato io. L'attacco a questo convoglio di civili che fuggiva da Luhansk. Sono due fondamentalmente i fronti caldi. Una è quella città lì, l'altra è Donetsk, città di 1 milione di abitanti che è praticamente sotto assedio da parte dell'esercito ucraino. Una crisi, dicevo, che dura da mesi e che per parecchio tempo ha seguito Danilo Elia, inviato dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Danilo, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti. Allora, Danilo, prima fuori onda discutevamo della situazione e mentre chiacchieravamo mi dicevi, in effetti hai visto un problema, sei appena tornato dall'Ucraina, sei in Italia adesso da pochissimi giorni e mi dicevi che il racconto mediatico da qui è un po' falsato, è un po' concentrato solo su alcune cose, questo convoglio umanitario che poi viene bloccato alla frontiera, eccetera, eccetera. Invece tu volevi riaccendere i riflettori e postare l'attenzione su cos'altro. Sì, ma io devo dire che appunto rientrando in Italia ho avuto la sensazione, la percezione che la copertura mediatica si è concentrata su, per carità, giustamente anche, ma solo esclusivamente sugli aspetti della, come dire, della diplomazia internazionale, delle forze in campo, e ho avuto l'impressione che la sofferenza della gente, degli ucraini che si trovano nelle zone di conflitto, siano scivolate un po' in secondo piano, un po' sullo sfondo. Voglio ricordare, appunto, come dicevi tu, Donetsk, una città di 1 milione di abitanti fino a un mese fa, avremmo detto così, oggi probabilmente sono 600.000 le persone rimaste, circa 400.000 persone hanno abbandonato la città. Le persone che continuano a vivere a Donetsk, io sono in contatto con alcuni abitanti lì che sono rimasti per diverse ragioni, chi sì. non può lasciare la città, sono sotto un fuoco incrociato. È sotto il fuoco incrociato dei separatisti e delle forze governative di Kiev, e si rischia di morire anche semplicemente stando in casa, perché, come è successo l'altro giorno per l'ennesima volta, un missile Grad, un pezzo di artiglieria, entra in casa, colpisce un'abitazione, una palazzina nel centro della città. Fra l'altro, Danilo, anche per i cronisti, per i fotografi è molto molto difficile lavorare lì, e vi è stato anche un cambio di atteggiamento, no, da parte dei separatisti, soprattutto rispetto alla presenza dei fotografi occidentali. Su Twitter si vede qualche immagine, in effetti, di gente che si rifugia negli scantinati, però mi confermi anche tu che il lavoro dei cronisti non è facile in questo periodo? Allora va detto subito che non è stato facile sin dal primo giorno, sin dai primi momenti di questa ondata separatista nel Donbass, dalla nascita di queste Repubblica di Luhansk e di Donetsk. Le forze separatiste hanno sempre visto di cattivo occhio la stampa ucraina in primo luogo, e occidentale anche. Ma la sensazione è che la cosa sia notevolmente peggiorata. Posso dire che Donetsk in questi ultimi giorni è veramente oggetto di una caccia alle streghe da parte di molti miliziani, mi riferisco riferita appunto nei confronti dei pochissimi cronisti occidentali rimasti, stranieri rimasti. C'è questa caccia alla spia e le minacce sono all'ordine del giorno. Insomma, c'è una grossa difficoltà davvero da parte degli operatori dell'informazione a dare un resoconto dei fatti di primissima mano dalla città, da Donetsk. Chiarissimo, grazie mille Danilo Elia, Osservatorio Balcani e Caucaso, grazie per il tuo contributo, buona giornata e buon lavoro. E a voi, buona giornata a voi. E come sempre accade in situazioni di crisi, in situazioni di conflitto, è molto molto facile che le forze in campo tentino di esercitare il loro potere, ovviamente anche sui giornalisti, per tirare con la giacchetta da una parte o dall'altra. Evidentemente in questa situazione per i giornalisti, i fotografi russi, è evidentemente un po' più facile addentrarsi in quella situazione. Ci ha raggiunto invece un'altra persona che ben conosce quella situazione, perché è esperta dell'area, Antonella Scotta, Sole 24 Ore, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, grazie. Allora, Antonella, che fra l'altro arrivi fresca fresca con una notizia. Sì, è proprio uscita adesso con la conferma del Cremlino che Vladimir Putin e il presidente ucraino Petro Poroshenko si vedranno a Minsk il 26 agosto prossimo, nell'ambito del vertice con l'unione doganale, che ricordiamo è l'unione che lega Russia, Kazakhstan e Bielorussia in un accordo commerciale, e dal quale l'Ucraina ha voluto rimanere fuori. Mi sembra molto importante che in questa occasione ci sia stato l'assenso dei leader di Russia e Ucraina a partecipare, insieme anche all'Unione Europea, e anche questo è importante, perché una delle cose, dei temi all'ordine del giorno sarà l'accordo commerciale che l'Ucraina ha accettato con l'Unione Europea e che è proprio all'origine, più di un po' meno di un anno fa, di tutta questa grande crisi, perché è stata quella l'intenzione dell'Ucraina, poi il rifiuto dell'Ucraina di firmare questo accordo commerciale con l'Unione Europea ha scatenato le proteste di Kiev e poi tutto quello che conosciamo. Forse il fatto che Russia, Unione Europea e Ucraina si trovino insieme a parlare anche di questo, almeno vogliamo aggrapparci alla speranza che possa essere un appiglio meglio da cui cominciare a cercare una via d'uscita. Certo, fra l'altro insomma la data è qui tra pochi giorni, però sappiamo bene che in situazioni drammatiche come quella che sta vivendo Donetsk e Luhansk anche pochi giorni, anche poche ore possono essere determinanti, quindi forse questa notizia invece fermerà le azioni militari sul campo. Nessun luogo è lontano. Tra i fattori che spiegano la lunghissima crisi ucraina ci sono certamente quelli economici, e su questo ci conforterà Antonella Scotto del Sole 24 Ore, che ci ha raggiunto in studio. Ma oggi è il World Humanitarian Day, oggi si celebra l'eroismo e il coraggio di quegli operatori umanitari che in tante aree di crisi, compresa quella ucraina, lavorano. Allora in quest'oggi vogliamo sottolineare particolarmente anche quelli che sono i costi e le perdite di questa crisi ucraina. Ascoltiamo. Il 15 agosto l'Ufficio di Coordinamento per gli Interventi Umanitari delle Nazioni Unite ha pubblicato i costi umani della crisi politica iniziata lo scorso aprile nella regione orientale dell'Ucraina. Negli ultimi 4 mesi i morti sono stati 2.119, di cui 20 bambini. I feriti sono oltre 5.000, tra questi ancora 30 minori. In media, dalla metà di aprile ad oggi, sono state uccise o ferite almeno 60 persone al giorno. Il protrarsi dei bombardamenti costringe sempre più persone a lasciare le proprie abitazioni. Nelle prime 2 settimane di agosto, più di 20.000 persone hanno abbandonato le cittadine di Donetsk e Lugansk. Anche l'urgenza umanitaria continua ad aumentare. Almeno 200.000 abitanti dell'area attorno a Lugansk sono stati privati di elettricità, acqua e reti di comunicazione per più di 10 giorni. Oltre 5 tonnellate di rifornimenti in vestiti, medicinali e fornitura scolastica donati da UNICEF, OMS, UNHCR e Fondo delle Nazioni Unite per le Popolazioni sono stati portati ai 2 centri di rifugiati a Yalta e Mariupol. Circa 2.000 tonnellate di aiuti umanitari, inclusi generi alimentari provenienti da Mosca, sono stati portati nelle cittadine dell'est Ucraina. L'assenza di un sistema centrale di registrazione dei rifugiati interni all'Ucraina continua a nascondere il calcolo reale delle esigenze umanitarie. Questo il bilancio nella crudezza delle cifre della lunga crisi ucraina. Il 26 agosto, diceva Antonella Scotto, vi sarà questa riunione che potrebbe insomma mettere un freno a tutto ciò. Allora Antonella, aiutaci a capire meglio, accennavi, sono sostanziali ragioni economiche che soggiacciono a questa crisi economica. Aiutaci a capire che cosa c'è in gioco, perché poi parleremo della guerra parallela, quella delle sanzioni, controsanzioni, embarghi eccetera eccetera. Da dove nasce il tutto? Dunque il tutto nasce dall'accordo di cui vi parlavo prima, che è un accordo commerciale, però che avrebbe che aprirà, anzi, perché poi alla fine il presidente Poroshenko, che è subentrato all'ex presidente Yanukovych, lo ha firmato. Non è soltanto una questione di aprire il mercato ucraino a quello dell'Unione Europea e viceversa, ma anche proprio la direzione, una direzione che una parte almeno della popolazione ucraina desidera prendere e che ha quindi rivelato un po' la spaccatura all'interno del paese, perché come abbiamo visto poi ci sono regioni orientali che hanno un orientamento diverso, quindi non è solo una questione commerciale. Quello però che è importante è riuscire a tenere in considerazione entrambe le anime, provare a vedere al di là del commercio, che poi comporta anche delle grosse difficoltà per l'Ucraina per adeguarsi agli standard europei, perché quello dell'Ucraina è un'economia assolutamente vicina, legata a quella russa. Il fatto che in questo momento la guerra le abbia troncato buona parte di questi legami mette in grosse difficoltà l'industria dell'Ucraina. Quindi forse la strada per uscirne passerà proprio anche da qui, da trovare un modo per mettere insieme gli interessi, le aspettative di tutte e tre le parti in causa. E semplifico troppo se dico l'Ucraina è una sorta di erma bifronte, cioè è un po' una cerniera tra est e ovest, e questo trattato ha in qualche modo messo a nudo la doppia anima del paese: da una parte quella filorussa o separatista, o chiamiamola come vogliamo, comunque sono russofoni, e dall'altra parte invece gli ucraini, che sono un po' più tirati verso l'ottica l'Europa europea, per la storia che li ha fatti vivere in modo diverso. Forse l'errore, sia da parte dell'Europa e degli Stati Uniti che da parte naturalmente della Russia, è di aver voluto strappare l'Ucraina da una parte o dall'altra senza far scegliere agli abitanti dell'Ucraina dove vogliono stare. 349-238-6666 se volete porre domande o commentare. Twitter, Giampaz, Nessun Luogo 24. Siamo con Antonella Scott per cercare di fare un po' il punto sulla lunga crisi ucraina, che i media hanno chiaramente raccontato con dovizia di particolari negli ultimi mesi e settimane, a fasi alterne in realtà, perché poi altre crisi si accendono. E però forse è mancato un momento di riflessione come quello che vi sto proponendo, in cui si ricapitola un po' quello che sta accadendo, perché sta accadendo. Antonella, apriamo l'altro capitolo economico, che è quello questa guerra parallela che si combatte a colpi di sanzioni, a colpi di embargo, eccetera. Cosa sta accadendo e cosa potrà accadere? Dunque, il fatto che la crisi ucraina si sia trasformata in una grossa crisi tra la Russia e l'Occidente in questi giorni uno degli aspetti più concreti, più evidenti, nel momento in cui il 7 agosto scorso la Russia ha deciso di rispondere alle sanzioni che piano piano, gradualmente nel corso dei mesi, Stati Uniti e poi l'Unione Europea hanno deciso, proprio per andare a colpire prima i personaggi, poi si è arrivati a colpire i settori, quindi proprio più direttamente l'economia, che venivano considerati coinvolti dapprima nel fatto che la Crimea che la Russia abbia portato dalla sua parte la Crimea, e poi che, secondo quanto ritengono Stati Uniti e Unione Europea, abbia acceso questa rivolta e poi questa guerra nelle regioni orientali dell'Ucraina. Ecco, le sanzioni americane ed europee sono state appunto hanno scatenato la reazione di Mosca, che adesso è passata proprio in concreto a bloccare l'import, appunto dal 7 agosto, l'import di prodotti alimentari, agroalimentari europei e americani, in sostanza, per farla breve, pesce, carne, frutta e verdura, latticini. Ecco. E questo è naturalmente è un'arma un po' a doppio taglio, perché da una parte danneggia naturalmente i produttori europei, soprattutto europei più che americani, anche se, ecco, nel campo dei polli è importante il mercato russo per gli Stati Uniti, però certo. Insomma, sono soprattutto i paesi dell'est Europa più vicini alla Russia quelli che dipendono molto dall'export agricolo. Nello stesso tempo questa, dicevamo, è un'arma a doppio taglio, perché sta già provocando un forte aumento dei prezzi alimentari in Russia, perché piano piano dovranno essere compensate le importazioni europee da importazioni locali. Questo sarebbe in prospettiva anche un bene per lo sviluppo di un'economia locale, infatti, della produzione locale. Infatti, dei prodotti russi. Però intanto non è in questo modo che ci si arriva. Poi certo. È comunque un processo che richiederebbe anni, e noi speriamo tutti che questa crisi finisca molto ma molto prima. C'è anche poi il fatto che il governo russo sta già prendendo accordi con paesi che non sono coinvolti in questa guerra di sanzioni, come la Turchia o i paesi dell'America Latina, cercando di aumentare le importazioni da lì. Però è chiaro che, essendo anche paesi più lontani, questo provocherà un aumento comunque un aumento dei costi. Ecco, prima fuori onda mi citavi qualche numero, no? Cioè, quanto costa l'Europa la crisi ucraina? Naturalmente, appunto, come dicevamo, dipende da quanto un paese, per esempio le Repubbliche Baltiche sono molto dipendenti o anche la Finlandia per quanto riguarda la sua produzione agroalimentare, la Norvegia per il salmone, la Germania, che è il paese europeo più legato all'Ucraina, scusate, alla Russia, ha un 3% del suo commercio rivolto alla Russia, che però con i numeri tedeschi è una parte importante. Si parla sempre anche dei, non so, dei posti di lavoro, cioè, ad esempio la Germania dice ci sono 300.000 posti di lavoro in Germania che hanno comunque a che fare con il commercio con la Russia, con le esportazioni in Russia. C'è poi anche da dire che al di là, accanto a queste sanzioni che sono sanzioni molto concrete, forse il danno più grave sia per una parte per l'altra, per la Russia come per l'Occidente, di questa crisi sono anche le sanzioni non dette, le sanzioni fantasma, cioè quelle che non sono scritte in una lista nera ma che frenano qualunque impresa che abbia progetti, che abbia intenzione di andare a conoscere il mercato russo e che invece in questo momento si sente frenata, così come dall'altra parte il fatto che le sanzioni europee e americane abbiano restretto l'accesso per le banche russe al credito non riguarda soltanto le banche russe, ma sono in difficoltà anche le compagnie russe che a questo punto hanno un gran bisogno di investimenti e non riescono più a trovare finanziamenti a prezzi vantaggiosi all'estero. Perché in buona sostanza i venti di guerra provocano incertezze, mancanza di previsioni sul futuro, sul lungo termine, quindi instabilità, volatilità anche dei mercati e quant'altro. Quindi insomma al di là dei polli, patate e peperoni, il danno più grosso insomma è l'incertezza sul lungo periodo. Grazie mille Antonella Scotto, Sole 24 Ore, per averci aiutato a comprendere cause e conseguenze della crisi ucraina. Grazie. Buona giornata, buon lavoro Antonella. Grazie. Allora siamo quasi in chiusura, però avete sentito anche dal GR sono stati lanciati razzi da Gaza nel sud di Israele, sono stati, leggo le agenzie con voi, raid israeliani sono stati adesso segnalati a Rafah nel sud della striscia di Gaza al confine con l'Egitto, lo riferiscono testimoni via social network, quindi Twitter e Facebook, mentre vi è la conferma che non vi sarebbe, questo sempre secondo fonti militari israeliane, nessuna vittima nel raid israeliano su Beit Laia, che non ha provocato, appunto non avrebbe provocato alcuna vittima. Siamo nella località a nord di Gaza, da dove sarebbero partiti i razzi che hanno interrotto il cessate il fuoco, mentre ancora al Cairo si lavora e si cerca di prolungare disperatamente quelli che sono dei colloqui che appaiono estremamente difficili. Fonti locali precisano che è stata colpita una zona disabitata. Dopo aver colpito il loro obiettivo, gli aerei israeliani hanno fatto ritorno alla base, così i portavoce dell'Israeli Defense Force. Per rimanere invece in tema ucraino, altre agenzie segnalano combattimenti strada per strada in corso tra esercito ucraino e ribelli filorussi nel centro di Lugansk e nell'est del paese. L'abbiamo citato prima, sono due i fronti fondamentali, Lugansk appunto e Donetsk, le due città dell'est. Una fonte, Agence France Presse, dice un quartiere di Lugansk è stato liberato e sono scontri per strada nel centro della città. Questo è il portavoce dei servizi di sicurezza ucraini, Andriy Lyshenko. Allora, 16:58 minuti, siamo in chiusura. Io ringrazio Nadia Zammitti, Miriam Lucchetti che hanno confezionato con me questa puntata, Filippo Aureggi che ha dato musica e ritmo. Vi ricordo, scrivetemi su Twitter, Giampaz, Nessun Luogo 24, Facebook, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24. Risponderò a tutti, questa trasmissione vuole essere anche un luogo di confronto per ampliare, far crescere l'attenzione su tutto ciò che accade al di fuori dei nostri confini, perché anche quando i luoghi sono lontanissimi, ebbene, ne risentiamo sempre anche noi. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.